Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata, solite rapide informazioni di servizio, la prima la nostra mail sottotiro@radio24.it, la seconda informazione riguarda il mio blog, lo conoscete, Guardie o Ladri, si tratta e si parla solo di mafia ed economia criminale, quindi se lo visiterete ne saprete sempre di più, soprattutto di alcune aree del paese che si ritengono immuni da questo fenomeno. Tra queste aree, fino a qualche tempo fa, c'era anche la provincia di Pavia. Sapete che ultimamente è assurta agli onori della cronaca anche a causa di questa inchiesta Il Crimine, svolta sull'asse Milano-Reggio Calabria, che ha chiamato in causa anche alcuni amministratori e comunque dirigenti di questa provincia. Pavia però ha il merito di essere anche una città di cultura, di grandissima cultura, di scienza e di tradizione, e lo testimonia il fatto che da 6 anni viene svolta una settimana di iniziative sui temi della lotta alle mafie. Viene organizzata dal Coordinamento per il diritto allo studio, ma coinvolge, quindi c'è il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza. Allora, inizia oggi questa settimana. Oggi alle 21 ci sarà la serata inaugurale con un dibattito d'apertura sulla camorra, le mafie e le istituzioni. E ci sarà, credo, molta carne al fuoco. Allora, noi dibattiamo oggi, la presentiamo con chi? Innanzitutto con Anna Di Chiarante, che è responsabile dell'organizzazione di questa 6ª edizione ed è una studentessa. Buongiorno, Di Chiarante. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi con il professor Vittorio Grevi, che è direttore del Dipartimento di Diritto e Procedura Penale proprio dell'Università di Pavia. Buongiorno, professor Grevi. Buongiorno a lei. Allora, Di Chiarante, partiamo da voi studenti, giovani, ragazzi, che hanno avuto alcuni anni fa, 6 anni fa, questa idea. Perché avete avuto questa idea e perché a Pavia? Allora, noi studenti di Pavia abbiamo pensato di realizzare questa iniziativa, questa settimana di incontri da tenersi la prima settimana del mese di ottobre, perché siamo sempre stati fermamente convinti della necessità di informare, di sensibilizzare, di mantenere viva l'attenzione della cittadinanza, soprattutto della cittadinanza interna all'università, quindi della popolazione studentesca, sui temi dell'antimafia e della legalità. Ecco, un secondo, Di Chiarante, la un attimo, perché a me più che la popolazione studentesca, che ovviamente spero che sia sensibile, lo do per scontato, ricordo quando ero studente universitario io, erano ben altri tempi e la politica ci scorreva lungo le vene, le chiedo, ma Pavia come risponde a suo giudizio, la città di Pavia? Io penso che la città di Pavia all'inizio sia stata forse un po' fredda rispetto alle nostre iniziative e molte volte ci viene rivolta ancora adesso la domanda del perché appunto nel nostro territorio tradizionalmente considerato immune dalle infiltrazioni della criminalità organizzata si organizzino queste iniziative. Però io credo che con il tempo la popolazione si stia affezionando a questo genere bene, di iniziative. Bene, questo mi fa piacere. Perché vuol dire che comincia ad esserci proprio una sensibilità diffusa. Allora, professor Grevi, è straordinario, diciamo prima fuori onda, mi fa particolarmente piacere perché ai miei tempi questo non accadeva, che l'università, diciamo così, il suo dipartimento, non diciamo l'università, parliamo del suo dipartimento, diritto e procedura penale, si sia fatto coinvolgere. Allora, perché si è fatto coinvolgere? Qual è il messaggio che vuole mandare con questa joint venture con gli studenti? Ma perché noi da sempre apprezziamo l'iniziativa di questi studenti che su base volontaristica organizzano questa settimana antimafia ed è giusto, ci è parso giusto che il Dipartimento, che naturalmente è fatto di professori di diritto e di procedura penale, dia il suo contributo per dare, come dire, una copertura di dottrina alle discussioni che vengono fatte e anche per agganciare queste discussioni all'attualità. Non dimentichiamo che, per esempio, l'anno scorso, in epoca ancora non sospetta per quanto concerne le indagini che poi hanno coinvolto Pavia, proprio durante questa settimana era stato anticipato che insomma le infiltrazioni dell'Andrangheta nel Pavese c'erano e qualcosa sarebbe successo. Certo. Ahimè, infatti è successo. Certo, ecco, a lei faccio la stessa domanda che ho fatto alla studentessa dichiarante. Come viene vissuta all'interno dell'università questa sua collaborazione, che è ovviamente benvenuta? Viene tollerata? Viene, come dire, incentivata? Perché francamente troverei normale, logico, addirittura educativo, che dopo 6 anni non fosse soltanto un dipartimento ad accompagnare gli studenti, ma fosse l'intera università, l'intera facoltà di giurisprudenza, magari al limite, ad accompagnare gli studenti. Ecco, è una domanda, come dire, pretestuosa la mia, oppure ci state pensando? No, la domanda ha senso, però devo anche dirle che c'è solidarietà e bene, c'è interesse, per esempio, bene, appunto lei stesso ha ricordato che la facoltà dà il patrocinio, certo, poi la facoltà è organizzata in diversi dipartimenti, naturalmente quello che più è vicino a questa tematica è il Dipartimento delle Materie Penalistiche. E quindi quest'anno sono coinvolto soprattutto io, perché gli studenti mi hanno caricato di quest'onere, però negli altri anni anche altri colleghi, certo, sono stati coinvolti, bene, nella vicenda, quindi è un, come dire, un atteggiamento unitario da parte nostra di aiuto, di solidarietà e di apprezzamento. Bene, bene. Ecco, io mi permetto sommessamente magari di suggerire, non a lei ovviamente che non ha bisogno dei miei suggerimenti, ma magari ai ragazzi che potrebbero essere i miei figli, di coinvolgere, perché no, la facoltà di economia, visto che oggi mafia ed economia spesso in molte parti del paese sono un connubio inscindibile. Io ne ringrazio il professor Grevi e la giovane studentessa Anna Dichiarante, ce ne fossero di studenti e studentesse così impegnate, dando a tutti oggi appuntamento a Pavia alle 21 per questa 6ª settimana di iniziativa sul tema delle mafie. Saluto i miei ospiti, saluto Peter Bescapè, Laura Faggin, e vi lascio con questo frame che è tratto da uno spettacolo teatrale che andrà in scena il mercoledì 6 ottobre alle 21, si chiama Parole d'onore, le voci della mafia. La curiosità è l'antecamera della svegitudine. Curiosity is the first step before being bought. I have never killed anyone because no one has ever harmed me. I've always worked to protect myself and my family and never had indenaggi. You must be straight, accurate and clear. The Ravina is the boss of the bosses! Tommaso Buscetta! Tommaso Buscetta has traveled too much.